Il processo ai 500 presunti golpisti in Turchia, la prima base militare cinese in terra africana a Gibuti. Il nuovo premier pakistano dopo lo scandalo che ha travolto Sharif accusato di corruzione e poi il giorno di non ritorno. Consumiamo più di quello che la terra produce. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. The military must and will always follow the leadership of the party. Buona giornata, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, sono le 16.06, ben ritrovati in una nuova puntata di Nessun Luogo Lontano. Anche quest'oggi allargheremo gli orizzonti e porgeremo lo sguardo al di là dei confini italiani. I saluti vi arrivano anche da Antonio Tali e Elisa Pancaldi, che hanno confezionato con me anche questa puntata, e Pietro Lacorte, che è in regia. Vi ricordo che potete porre domande, fare commenti e criticare sulla pagina Facebook Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24. Troverete anche la diretta Facebook sulla nostra pagina e sulla pagina di Radio 24. Potete twittare all'indirizzo Nessun Luogo 24, ovvero il mio personale, che è Giampaz, e poi WhatsApp, ma anche SMS al 349-238-6666. Allora, io per politica, lo sapete, ma se non lo sapete ve lo ricordo, non leggo mai i complimenti e le attestati di stima, che pure arrivano, e ringrazio gli ascoltatori che ci stanno seguendo. Normalmente, di solito, leggo solamente le critiche o le domande, e fra l'altro risponderemo a una domanda molto precisa che è arrivata da un ascoltatore un paio di giorni fa. Detto ciò, partiamo dalla Turchia, prima pagina di Nessun Luogo Lontano, andiamo ad Ankara, dove si celebra un importante processo. E le urla di scherno che avete sentito sono quelle dei tanti sostenitori del presidente Erdogan mentre sfilavano, accompagnati al tribunale di Ankara, i 500 presunti accusati appunto del golpe di circa un anno fa. Alla sbarra vi sono parecchie persone. Che significato ha questo processo? Sarà un'ennesima leva anche di propaganda che verrà utilizzata dal presidente Erdogan? Questa è una delle tante domande a cui cercheremo di dare risposta, e lo facciamo col primo ospite, che è Valera Talbot, ricercatrice capo del programma Mediterraneo e Medio Oriente di ISPI. Valera Talbot, buongiorno e ben ritrovata a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Allora, sì. La prima domanda è questa: il significato di questo processo e quanto può diventare una leva politica nelle mani di Erdogan? Valeria Talbot. Il processo che si sta svolgendo in questi giorni ad Ankara ha un significato molto importante per la Turchia e per il suo presidente Erdogan, che dopo il tentativo di colpo di Stato dello scorso anno ha visto rafforzate enormemente la propria figura e i propri poteri. In una situazione diversa potremmo dire che il processo intende chiudere una tristissima pagina della recente storia turca, che è costata la vita a 250 persone la notte tra il 15 e il 16 luglio del 2016. Tuttavia quello che ne è seguito è, in termini di arresti, di epurazioni, di adozioni di misure liberticide, di erosione del processo, del cammino democratico della Turchia e anche di erosione dello Stato di diritto, è altrettanto triste per un paese che fino a qualche anno fa veniva indicato come un modello di sviluppo, un modello democratico per i paesi del Medio Oriente. Dalle immagini trasmesse dalle televisioni di tutto il mondo, dell'ingresso degli imputati in tribunale, è evidente che il processo verrà utilizzato come una operazione di immagine per il presidente Erdogan. Sì. Valeria Talbot, torniamo al processo, nel merito del processo, perché i capi di imputazione sono gravissimi: omicidio, tentato omicidio del presidente, violazione della Costituzione, ergastoli a profusione in vista, perché ormai la pena di morte, per quanto invocata da tanti sostenitori del presidente, se non erro dal 2003, è stata abolita in Turchia. Chi sono gli avvocati che difendono i golpisti? Sarà un processo equo? Esistono delle garanzie anche giudiziarie rispetto a questi quasi 500 400, per il momento sono solo accusati, quindi vedremo la giustizia che corso farà. I capi d'accusa certamente sono pesantissimi per chi è accusato di un colpo di Stato, di attentato nei confronti dello Stato turco. Se consideriamo il controllo che l'esecutivo è andato man mano ad esercitare negli ultimi anni sulla magistratura, ricordiamo anche che nell'ultimo anno sono state migliaia le epurazioni di magistrati in seguito appunto al tentativo di golpe, consideriamo anche le pressioni che vengono esercitate sui giudici, sorgono dubbi sulla equità del processo, cioè i dubbi sono più che legittimi. Certo, la grande figura, il grande maestro orchestra del golpe, secondo la narrativa di Erdogan, sarebbe stato Gülen, che è ormai negli Stati Uniti da tempo, che è questa figura oscura appunto nella narrativa di Erdogan, e sarebbe appunto il mandante. Che ripercussioni potrebbe avere secondo lei nel rapporto Stati Uniti-Turchia il fatto che appunto fra l'altro Gülen sarà processato in contumacia, per cui insomma come dire, ci sarà un impatto sui rapporti Turchia-Stati Uniti secondo lei? Prima di rispondere alla domanda sull'impatto, vorrei dire che in Turchia non solo il governo e i sostenitori del partito Giustizia e Sviluppo sono convinti della responsabilità di Gülen, ma vi è un'ampia convinzione nella popolazione turca che il golpe sia stato in qualche modo orchestrato dal predicatore in esilio in Pennsylvania dalla fine degli anni 90. Per quanto riguarda i rapporti con gli Stati Uniti, senz'altro l'estradizione di Gülen, che la Turchia ha chiesto più di un anno fa, rappresenta una delle criticità più importanti nelle relazioni tra Washington e Ankara. Vi erano nel governo turco delle importanti aspettative per un cambiamento di rotta nei confronti dell'amministrazione Trump rispetto alla precedente amministrazione Obama, tuttavia non si è verificata alcuna discontinuità nella linea americana e quindi la questione Gülen continuerà a rappresentare una criticità e a gettare ombre sulle relazioni tra i due alleati NATO. Tra l'altro non è l'unica criticità che pesa sulle altalenanti relazioni tra Washington e la Turchia. Certo, su quelle fra l'altro dobbiamo aprire tutto un altro capitolo, forse dedicare un'intera puntata di Nessun Luogo Lontano, però c'è un'altra criticità su cui volevo, dottoressa Talbot, solleticarla, perché pochi giorni fa si è aperto un altro processo a 19 giornalisti e amministratori di un importante quotidiano dell'opposizione, il direttore in esilio in Germania. Spesso anche da questi microfoni abbiamo denunciato la situazione dei giornalisti, dei colleghi in Turchia. La Turchia è forse il paese che detiene il primato al mondo per numero di giornalisti imprigionati. Un commento brevemente anche su questa situazione. Sì, la Turchia detiene questo tristissimo primato, sono oltre 160 i giornalisti oggi in prigione. L'accusa ai giornalisti di Cumhuriyet è quella di sostegno al terrorismo. Si tratta di un'accusa che è stata spesso rivolta non solo ai giornalisti in quest'ultimo anno, ma anche ad intellettuali, accademici, per avere delle opinioni critiche o semplicemente di dissenso diverse da quello delle autorità di governo. Sono innumerevoli i quotidiani e i media che sono stati chiusi in quest'ultimo periodo. Quello che però mi preme sottolineare è che la censura nei confronti della libertà di stampa e la forte limitazione della libertà di espressione in Turchia non è una conseguenza del fallito golpe. È un fenomeno che è in misura diversa si era verificato anche in precedenza, soprattutto a partire dal 2003. Ricordiamo i ripetuti blackout dei social media, certo. Ricordiamo anche la chiusura di quotidiani come Zaman, che è affiliato all'organizzazione di Gülen. Quindi si assiste ad un controllo sempre più capillare oggi degli organi di informazione in Turchia. Sì. Grazie mille, Valeria Talbot, per anche questo commento e questa fotografia sulla situazione della libertà di stampa in Turchia. Lo ricordo, Valeria Talbot di ISPI, Istituto di Studi per la Politica Internazionale, è capo del programma per il Mediterraneo e il Medio Oriente. Buona giornata e buon lavoro, Valeria. Buona giornata a voi, grazie. (349) 238 6666, questo vale per gli sms e per i whatsapp. Fra l'altro c'è già un ascoltatore che sostiene che il golpe dello scorso anno è stata una messa in scena architettata da Erdogan. Insomma, forse è un po' una forzatura, certamente Erdogan ne ha tratto un profitto enorme. Poi c'è Maria da Roma che in realtà va a sollecitarmi su un tema su cui andremo, e cioè i volontari dell'ONG che soccorrono i migranti, vorrebbe avere un'idea del giro di soldi, dallo stipendio alle spese sui migranti. Ci andremo. Fra l'altro ricordo che i bilanci sono quasi tutti super trasparenti, quindi è anche abbastanza facile reperire informazioni. Stiamo preparando una puntata speciale tutta dedicata all'immigrazione. Sapete che noi amiamo i punti di vista un po' laterali, siccome adesso tutti parlano del codice di condotta, della missione in Libia eccetera, noi aspettiamo un attimo e cercheremo di proporvi un punto di vista diverso e inusitato. Adesso dobbiamo cambiare totalmente pagina e chiedo a Pietro Lacorte un piccolo contributo. Perché oggi è una giornata importantissima. Oggi, nei giorni scorsi, nei mesi scorsi, negli anni scorsi, goccia dopo goccia, l'umanità presente sul territorio, la nostra civiltà, ha consumato risorse, fra cui l'acqua, per esempio. Le ha consumate in maniera tale che siamo arrivati a un punto per cui consumiamo, estraiamo e sfruttiamo più di quanto poi la terra riesca a rigenerare. In buona sostanza, il tempo è scaduto. In svariate puntate di Nessun Luogo Lontano, non solo in questa edizione ma anche negli anni scorsi, abbiamo parlato di risorse scarse. Abbiamo parlato delle guerre dell'acqua, del pesce, per dirle in maniera poco sexy, e dei conflitti che si scatenano a causa delle rotte marittime e di pesca, e poi ancora del legname. Tutte risorse scarse che l'uomo consuma, e molto spesso il cui consumo porta o a conflitti dichiarati e aperti, oppure a tensioni sotto traccia anche a livello geopolitico. Alessandro Galli è direttore del programma Mediterraneo del Global Footprint Network, è un think tank, è un centro di ricerca che fotografa la nostra impronta, fotografa quanto siamo scomodi noi esseri umani sul pianeta Terra. Buongiorno e benvenuto a Nessun Luogo Lontano ad Alessandro Galli. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Allora, oggi è una giornata triste da celebrare, dottor Galli, perché si è superato un punto che forse era meglio non superare. Ci spiega meglio perché è così importante oggi, mercoledì 2 agosto? Sì, diciamo che anche io vorrei fornirvi un punto di vista un po' diverso, no? rispetto al solito. Perché quello che tentiamo di fare con i nostri calcoli al Global Footprint Network, con la metodologia dell'impronta ecologica, è una specie di bilancio di esercizio, però in realtà non andiamo ad analizzare un esercizio, ma bensì il nostro sistema Terra e il nostro ruolo come individui, come abitanti del pianeta Terra nel corso di un anno. Quindi il bilancio che facciamo è un bilancio ecologico. Lei parlava in precedenza delle guerre per l'acqua, le guerre per le risorse ittiche, la deforestazione, diciamo che tutti quanti questi elementi, insieme al consumo di cibo e consumo di combustibili fossili, sono gli aspetti che noi andiamo a considerare nel nostro bilancio ecologico. Quindi sì, in pratica cosa facciamo? Una sorta di analisi, quella che è la disponibilità di risorse naturali, che siano pesce, prodotti agricoli, terreno da pascolo, risorse energetiche e così via, e le confrontiamo con quella che è invece la domanda da parte delle nostre società. E quello che vediamo è appunto che c'è uno sbilanciamento in questa situazione, con una domanda da parte dell'uomo che è estremamente più elevata rispetto alla disponibilità naturale. Ecco, Alessandro Galli, quali sono i rischi di un consumo spropositato a fronte di una scarsità di risorse? Ma diciamo che possiamo fare un semplice esempio, che è quello che poi noi utilizziamo spesso per comunicare questa informazione sì. in maniera molto semplice. Pensiamo al nostro conto in banca, no? Il nostro conto in banca ci dà ogni anno degli interessi. Se noi viviamo degli interessi che il conto in banca ci produce, ci dà ogni anno, il nostro capitale rimane invariato e quindi riusciamo nel lungo termine ad avere sempre di che vivere. Se invece spendiamo annualmente più di quello che, di quelli che sono gli interessi generati dal nostro conto in banca, ecco che il conto, il capitale economico sì. Diminuisce sempre più e quindi a lungo termine non sarà in grado di darci nessun interesse. La stessa cosa avviene con il capitale naturale, cioè un capitale naturale, uno stock di base che fornisce le risorse, queste risorse hanno una velocità con cui vengono prodotte dal pianeta. Se noi le consumiamo più velocemente del loro tasso di rigenerazione, ecco che a un certo punto questo stock di capitale naturale comincia a diminuire e mette a rischio la capacità del pianeta di sostenere la vita nel lungo termine. Lei si occupa fondamentalmente di Mediterraneo. Sul Mediterraneo alcune risorse sono facilmente intuibili, no? Abbiamo lo stesso bacino del Mediterraneo, quindi l'acqua, le rotte marittime di cui ci siamo anche occupati. Paesi virtuosi, paesi da bacchettare che si affacciano sul bacino del Mediterraneo? Ma diciamo che la situazione a livello mediterraneo, con i dati, l'analisi che facciamo con l'impronta ecologica, devo dire che è abbastanza negativa, ecco. Purtroppo, perché mentre a livello globale vedevamo che negli anni 60 e all'inizio degli anni 70 c'era un surplus ecologico, quindi siamo entrati a livello globale in un deficit ecologico solo a partire dagli anni 70, a livello di regione mediterranea eravamo caratterizzati da un deficit ecologico già prima degli anni 60. Le nostre analisi iniziano nel 61, ma vediamo che già in quell'anno c'era un sovrautilizzo delle risorse della regione. E questo ovviamente poi comporta problemi nel lungo termine, non solo ecologici, ma anche economici e anche poi di pace, diciamo, nella regione mediterranea. Sì, però non mi ha detto se ci sono paesi che dobbiamo bacchettare, cioè paesi un po' più virtuosi e paesi un po' meno virtuosi. Per esempio, adesso per non stare sul bacino del Mediterraneo, però da tempo si parla della Cina, della sua esplosione industriale che, come dire, non guarda particolarmente per esempio all'impatto ambientale, no? Altri paesi che sono più evoluti magari dal punto di vista industriale abbracciano già tecnologie a basso impatto ambientale, quindi esistono delle forbici nel mondo tra sistemi industriali, no? E anche di produzione e anche di alimentazione. Sì, allora io avevo evitato un po' di fare un elenco dei buoni e dei cattivi, ma facciamolo, via. Facciamolo, dai. Ma possiamo restare anche sull'area mediterranea. Assolutamente sì. Anzi, prima vorrei dire una cosa sulla sì. Cina, perché spesso si dice, sì, ovviamente è tra i paesi che inquinano maggiormente a livello mondiale in termini di emissioni di CO2 e anche in termini di impronta ecologica, se si guarda le due nazioni che in termini assoluti hanno l'impronta maggiore sono gli Stati Uniti e la Cina. Sì. Da un lato gli Stati Uniti, a causa dell'elevato stile di vita, dell'alto stile di vita, degli elevati consumi della popolazione, nell'altro caso in Cina soprattutto a causa di una elevata popolazione. Quindi diciamo che questi due paesi sono quelli che da soli richiedono circa un 40% dell'impronta ecologica globale, sì. Solamente queste due nazioni. Però non ci dobbiamo dimenticare che negli ultimi anni la Cina è una di quelle nazioni che sta investendo di più sullo sviluppo di energie rinnovabili e fonti energetiche alternative. Quindi sì, magari ha molti passi da fare rispetto a quelle che solitamente sono dette lì i paesi sviluppati, no? Sì. Occidentali, però sta investendo molto in fonti energetiche alternative. Sì. E al tempo stesso anche gli Stati Uniti, abbiamo visto che per gli ultimi tre anni si è assistito a una riduzione delle emissioni di anidride carbonica, mentre si assisteva anche ad un aumento dell'economia. Quindi questo in termine tecnico poi si chiama decoupling, no? Si divide quella che è la crescita economica dall'impatto ambientale. Quindi segni ci sono positivi nell'area mediterranea. Abbiamo visto nell'ultimo, proprio per questo, per l'Overshoot Day, abbiamo preparato in collaborazione con Barilla Center for Food and Nutrition, un'analisi per quanto riguarda quelle che sono le abitudini alimentari nei paesi mediterranei, sì. E abbiamo visto che in Francia sono molto attivi, la Francia è molto attiva sia per quanto riguarda il discorso della produzione sostenibile, ma anche per il discorso delle diete e per il discorso della prevenzione delle malattie collegate all'alimentazione, quindi diciamo il gap o il paradosso tra sovranutrizione e sottonutrizione. Chiarissimo. Alessandro Galli è direttore del programma mediterraneo del Global Footprint Network. Se volete saperne di più, footprintnetwork.org, scusate l'inciampo. L'ultima domanda per lei, Galli, è le raccomandazioni, perché abbiamo capito che date le risorse, più scarse esse diventano, più l'impatto è sul pianeta e più che l'interesse, diciamo, il punto di vista che più ci riguarda, quello più strettamente geopolitico, si possono scatenare tensioni o eventualmente anche conflitti. Cosa raccomandate voi dopo questi decenni di studio appunto sulle risorse? Ma allora, diciamo, innanzitutto per chi è interessato inviterei tutta ad andare sul nostro sito per due motivi. Uno, perché lanciamo proprio oggi un nuovo calculator, un calcolatore online in cui ogni singolo individuo può calcolare la propria impronta ecologica e andare a vedere qual è il suo personale overshoot day. Quindi già questa è una prima informazione utile che poi serve anche a andare a capire quali azioni possono essere fatte nel quotidiano per ridurre tale impronta. Proprio a questo merito abbiamo sul nostro sito tutta una serie di soluzioni, di possibili scelte alternative e quanto potrebbero impattare sull'overshoot day. Rimanendo proprio sul discorso che facevamo del cibo, la nostra analisi abbiamo tentato di andare a vedere quanto ridurre gli sprechi alimentari o cambiare la nostra dieta potrebbe impattare la nostra impronta ecologica. E qua i risultati per me sono abbastanza interessanti, perché solamente andando a cambiare, diciamo, delle pratiche di comportamento, che è sprecare meno cibo e mangiare una dieta sana e più equilibrata, quindi ritornare un po' a quella che era la dieta mediterranea dalla quale ci siamo allontanati, si potrebbe ridurre l'impronta ecologica globale di circa il 16%, il che vorrebbe dire, con una semplice azione di cambio dei nostri comportamenti, posticipare la data dell'overshoot day di circa un mese e mezzo. Chiarissimo, grazie mille della fotografia e degli eventuali suggerimenti. Vi ricordo, avete sentito Alessandro Galli, direttore del programma mediterraneo del Global Footprint Network, footprintnetwork.org, per saperne di più e calcolare anche la vostra impronta ecologica. Grazie mille Alessandro Galli per essere stato con noi, buona giornata e buon lavoro. Grazie mille e buona giornata anche a voi, arrivederci. Allora, se è vero che la nostra impronta ecologica non solo ha un impatto sulle risorse, ma anche risvolti anche economici o finanziari estremamente importanti, è venuto il momento di sentire le ultimissime della borsa e poi seconda pagina di Nessun Luogo Lontano. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Nessun Luogo. Nessun Luogo è Lontano. Ben ritrovati gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori, seconda pagina di Nessun Luogo Lontano. Vi ricordo innanzitutto le coordinate per interagire con noi, 349-238-6666 per porre domande o per commentare i temi che stiamo trattando in questa terza puntata di Nessun Luogo Lontano, nuovo ciclo, settimo anno qui di estate di Grandi Esteri su Radio 24. Il numero vale anche per WhatsApp, 349-238-6666, Twitter Nessun Luogo 24 ovvero Giampaz, Facebook Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24. Ieri vi abbiamo parlato di vari paesi africani e alcuni ascoltatori hanno sottolineato come la presenza cinese sia molto molto importante nei paesi africani. Se andate a seguire un po' di report dettagliati, ne stavo leggendo uno pochi minuti fa del Council on Foreign Relations, per esempio, che quantifica nel circa il 15% l'import-export tra Africa e Cina e racconta come ormai da alcuni anni la Cina abbia sbalzato gli Stati Uniti come principale partner nei commerci dell'Africa, e beh, c'è un luogo nuovo, c'è un campo nuovo che merita di essere analizzato, perché da ieri la bandiera cinese sventola in uno scenario inusuale. Che se è vero che ormai è cosa consolidata anche nella narrativa, scusate, giornalistica, la presenza cinese in Africa, una presenza cinese fatta di grandi scambi commerciali, di movimenti in punta di piedi dal punto di vista politico, perché mai Pechino va a interferire sulla politica di leader anche giudicati dall'Occidente o dall'Europa ai limiti del dittatoriale, e quindi una presenza che è molto molto orientata alla parte economica, mentre una presenza militare, beh, quello è proprio una notizia. Infatti ieri la Cina ha inaugurato una base militare a Djibouti, siamo nel Corno d'Africa, proprio nel giorno in cui il suo esercito festeggiava il 90° anniversario. Questa base consentirà alla Marina Militare di Pechino di espandere il raggio delle missioni nelle quali è già impegnata al largo delle acque della Somalia e dello Yemen. Sono molto spesso missioni antipirateria, protezione dei cargo. Voi lo sapete, ne abbiamo trattato parecchio nelle scorse edizioni di Nessuno Vuole Lontano, ormai la pirateria nel Golfo di Aden è un problema residuale, però rimane una zona piuttosto pericolosa. Il punto è che questa presenza cinese nel Corno d'Africa ha suscitato i timori dell'India, che teme di essere al centro di una strategia di contenimento nell'Oceano Indiano. Djibouti, che io ho accarezzato solo di passaggio quando anni fa mi stavo recando in Somalia, è un luogo particolarmente intrigante. È un paese molto piccolo in cui ci sono più militari che civili, ci sono presenze militari importanti, c'è una base francese, c'è anche una base giapponese, ci sono gli americani. Cosa succede, cosa succederà nell'Oceano Indiano e qual è la strategia cinese? Insomma, cosa ci fa una bandiera rossa nel Corno d'Africa? A queste domande ha tentato di rispondere Steve Tsang, direttore del China Institute alla SOAS, la scuola di studi africani e orientali dell'Università di Londra. Antonio Talia lo ha raggiunto, la prima domanda è stata: qual è l'importanza della base dell'esercito cinese a Djibouti? La Cina punta a diventare una potenza marittima? Sentite. I don't think China is trying to turn itself into a smaller version of the United States yet. Non credo che la Cina stia cercando di trasformarsi in una versione più piccola degli Stati Uniti, almeno per ora. Ma la costruzione e i progetti di nuove basi e di nuovi porti di supporto per la marina militare cinese costituisce uno sviluppo molto significativo. Per lungo tempo la Marina Militare Cinese ha operato quasi esclusivamente nelle acque territoriali cinesi e la missione antipirateria al largo delle coste somale è stata la prima missione di una certa importanza. Si tratta di una missione che sta proseguendo e la base di Djibouti serve in qualche modo come supporto a questa missione. Inoltre va sottolineato che non si tratta solo della base di Djibouti, ma di una serie di porti e punti operativi che si estendono lungo le acque dell'Oceano Indiano e la costa est dell'Africa, che quindi possono essere impiegate per operazioni in mare aperto più ambiziose. More blue water operations. Torniamo a Pechino però, perché il discorso di Xi Jinping all'esercito è stato importante. Il presidente ha ribadito che la Cina non tollererà alcun tentativo di dividere il territorio cinese. Sentite lo studioso. China's foreign and security policy has certainly been more assertive. La politica estera e le politiche di difesa cinesi sono di sicuro diventate più forti e determinate dal 2012, da quando Xi Jinping è al potere. A mio parere, però, l'immensa parata militare per celebrare il 90° anniversario dell'esercito, che si è tenuta qualche giorno fa, non costituisce tanto un messaggio per le nazioni vicine o per le potenze straniere, quanto un messaggio rivolto agli altri leader del Partito Comunista in Cina. Se la parata fosse stata un messaggio per gli stranieri, si sarebbe tenuta a Piazza Tiananmen e non in una base militare lontana che molti giornalisti fanno quasi fatica a raggiungere. I segnali importanti che arrivano dalla parata sono due. Il primo è che Xi Jinping indossava per la prima volta per un leader cinese una divisa da combattimento, segno che lui è con l'esercito e che l'esercito è con lui. Secondo segnale è che tutto il suo discorso era rivolto ad affermare che il partito controlla l'esercito. Ora, questo elemento non è nulla di nuovo, ma Xi Jinping ha voluto enfatizzare davanti ai suoi colleghi che l'esercito deve obbedire al partito, che l'esercito obbedisce a lui, e tutto ciò a pochi mesi di distanza dal prossimo congresso del partito. Il messaggio chiaro ai compagni è: farete meglio a comportarvi come bravi membri del partito. E se lo fate, il congresso sarà una cosa semplice e tutto andrà liscio. Se non vi comportate bene, è meglio che facciate molta attenzione. E come mi insegna spesso Antonio Talia, la politica cinese sembra granitica e monolitica, ma non è così. E molto spesso i segnali che apparentemente sono rivolti all'esterno, l'avete sentito anche dal nostro ospite, in realtà sono messaggi forti rivolti anche al partito. L'ultima domanda per il nostro ospite, il dottor Zhang: in quali aree l'esercito cinese sarà più attivo? Da Gibuti, da altre basi, la Cina cerca di guardare i suoi interessi africani e per esempio a contenere l'India, o ci sono anche altri interessi? Sentite. I don't think the Chinese are trying to contain India. Non credo che la Cina stia cercando di contenere l'India. È vero che c'è una rivalità tra le due potenze e che ci sono alcune controversie territoriali, ma mi pare che gli indiani si preoccupino dei cinesi molto più di quanto i cinesi non si preoccupino degli indiani. E quindi Pechino non vede una necessità di contenimento in tempi brevi. La costruzione di queste basi in posti come Pakistan, Sri Lanka, fino a Gibuti, serve ai cinesi per sostenere le loro missioni lontano dalle loro acque più immediate. E l'Africa sta costituendo sempre di più una parte molto importante delle relazioni commerciali ed economiche cinesi. Ora, che la Cina intenda fornire supporto militare alle sue relazioni commerciali con i paesi africani è ancora tutto da vedere. E non mi pare che siamo ancora a questo punto. Però dobbiamo anche ricordare che storicamente, in molti casi, la bandiera arriva dopo che è arrivato il commercio. Insomma, se hai interessi economici più forti, la tua volontà di proteggerli anche militarmente aumenta. È ancora presto per dire che nel caso delle relazioni tra Cina e nazioni africane la bandiera seguirà il commercio. Ma dobbiamo anche tenere in mente che quando i tempi saranno maturi, la Cina potrebbe comportarsi in maniera non diversa da quella di altre potenze prima di lei. Avete sentito Steve Zhang, direttore del China Institute alla SOAS, la scuola di studi africani orientali dell'Università di Londra, che così ha fotografato questo evento storico dal punto di vista militare, ma anche politico e probabilmente economico, cioè questa bandiera cinese che sventola su Gibuti. Adesso, complice un ascoltatore, cambiamo pagina, andiamo in Venezuela. Yo, oi, I used to be a criminal, top car dealer. Big competition, but Mark has a reel. But quite frank, Mark cars were professional, ringed over exceptional. Serial change, notebook keys. All you need to worry about was the fees. Well, let's see, it could start from a bag, depending what car you could pay 20 G's. Andiamo in Venezuela, perché le ultimissime non sono esattamente tranquillizzanti. Ma questo ormai, insomma, il paese nelle ultime settimane, mesi, ci ha abituato a notizie di questo tipo. Intanto, la fuga nell'ambasciata cilena di due giudici di spicco che si sarebbero appunto rifugiati in una ambasciata amica perché si sentivano in pericolo. E poi l'avete sentito anche dal GR, sono messi in discussione i risultati di affluenza dell'ultima tornata elettorale di cui vi abbiamo dato conto. Però Roberto Derin ci ha raggiunto con noi qua in studio per rispondere a una domanda di un ascoltatore molto, molto accurata, molto lucida, perché quando Roberto ci davi conto, buongiorno intanto, ben ritrovato. Buongiorno a voi. Ci davi conto della crisi venezuelana, abbiamo dimenticato un piccolo particolare, cioè la compagnia di Stato petrolifera. L'ascoltatore diceva: ma in mezzo a tutta questa crisi, questa compagnia di Stato, che è importante, no? Che ha un suo peso, come si muove? Cosa può accadere, Roberto Darin? La compagnia di Stato del Venezuela, si chiama PDVSA, è la società energetica, ha un peso rilevantissimo perché è sostanzialmente la cassaforte del paese. Il 90% degli introiti in dollari del Venezuela derivano dal petrolio e la gestione è in mano a PDVSA. PDVSA è l'omologo, diciamo, dell'ENI italiano, per dare un'idea agli ascoltatori. Cosa può succedere? Può succedere che vada in default il Venezuela, ma non PDVSA, quindi diciamo sono uno Stato nello Stato, ma PDVSA tecnicamente è molto più difficile che vada in default perché comunque può sempre puntare e contare sugli ingressi delle sue produzioni ed esportazioni petrolifere. Quindi il Venezuela emette dei titoli obbligazionari per proprio conto e PDVSA ne emette degli altri altrettanto per proprio conto. Ecco, questo è il distinguo. Quindi naturalmente poi gran parte degli incassi di PDVSA sono in mano al governo venezuelano. In passato PDVSA aveva dei vertici e c'era una buona e sostanziale autonomia rispetto al governo, sì. Ora nelle ultime gestioni di Chavez e di Maduro effettivamente ci sono stati dei, come dire, non più tecnici ma politici al vertice della società energetica. Chiarissimo, grazie mille Roberto Darini, inviato del Sole 24 Ore in America Latina, che ci ha dato quest'ultimo aggiornamento e ha soddisfatto la curiosità di uno dei nostri ascoltatori. Vi ricordo 349-238-6666 per i vostri commenti, le vostre domande, ce ne sono un po', rispondo non prima però di avervi dato ragguagli sulla situazione del traffico sulle strade. Welcome Italia, i migliori servizi di telecomunicazione per la vostra impresa. Vi presenta Nessun luogo, nessun luogo è lontano. Ben ritrovati, gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori. Ultima pagina di Nessun Luogo Lontano, 16:46 minuti in questo esatto istante. Un ascoltatore o ascoltatrice ci chiede ragguagli sulla misura della nostra impronta, il nostro impatto ecologico. Vi ridò il sito che è footprintnetwork.org e lì c'è questa nuova applicazione, questo nuovo algoritmo che permette di misurarla con ancora maggiore precisione. Poi ci sono ascoltatori che, si lanciano in una serie di valutazioni di tipo bellico e anche particolarmente tecnico, sui quali francamente non riesco a sindacare. La qualità delle armi cinesi è molto migliorata agli anni 70, si trovano ovunque, non lo so. È vero che per esempio si trovano un sacco di Kalashnikov nei teatri che frequento io, quelli soprattutto africani, di fabbricazione cinese. Allora, nell'ultima pagina di Nessun luogo è lontano dobbiamo fare un altro doppio salto mortale, dobbiamo cambiare continente, dobbiamo andare in Asia, dobbiamo andare in Pakistan. Shahid Khaqan Abbasi saab ne 221 votes liye. Pakistan's parliament celebrates as the ruling party's pick for prime minister wins a vote to take on the job. Shahid Rakhan Abbasi is an ally of ousted Premier Nawaz Sharif and was nominated by him as interim leader. The ex-oil minister is set to hold the job. E come avete sentito dai principali titoli dei grandi network internazionali, la notizia è di ieri, l'abbiamo fatto un attimo raffreddare per poi parlarvene quest'oggi. Shahid Khaqan Abbasi, ex ministro del petrolio del governo Sharif, è stato nominato nuovo primo ministro del Pakistan. Il vecchio premier Sharif era stato coinvolto e travolto, anzi, da uno scandalo rivelato dai Panama Papers, corruzione, giri di soldi poco chiari. Il Pakistan è un paese, ancora una volta, molto poco raccontato nei media italiani. Se è raccontato si parla molto spesso di Taliban, ma non è solo quello. E ne parliamo con Francesca Manenti, analista esperta di Pakistan del Centro Studi Internazionali CESI. Buongiorno Francesca Manenti, benvenuta a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno. Allora, ricapitoliamo un attimo la questione. Cosa è accaduto e cosa ha fatto vacillare la leadership di Sharif? Ma la Corte Suprema pakistana ha ordinato nei giorni scorsi all'ormai ex primo ministro Nawaz Sharif di fare un passo indietro, quindi di dimettersi e ufficialmente di bandirlo da qualsiasi incarico pubblico per uno scandalo legato a una presunta falsa dichiarazione dei propri redditi presentata al Parlamento nel corso del 2013. La famiglia di Sharif nei giorni scorsi era stata coinvolta nei famosi Panama Papers, quindi quello scandalo internazionale che aveva coinvolto diversi leader e tra cui appunto la famiglia di Sharif. C'erano state già delle indagini, la Corte si era espressa con un dubbio in un primo momento e poi appunto nei giorni scorsi invece è arrivata la sentenza definitiva che ha costretto il primo ministro a dimettersi e quindi ha aperto quella che è stata una piccola fase di crisi di governo. È terminata appunto ieri quando il Parlamento pakistano ha nominato il nuovo premier. Che si tratta a Basi, che è però un premier ad interim, sì. Quindi dovrebbe rimanere in carica per circa 45, una cinquantina di giorni, fino a quando il successore designato dell'ex primo ministro dovrebbe effettivamente poi prendere il posto e le redini del paese. Qual è il punto? È che il successore designato altro non è che il fratello dell'ex primo ministro, attualmente governatore del Punjab e che dovrebbe appunto rientrare nella carica di primo ministro a partire da settembre. Ecco, che però non è stato toccato dallo scandalo di corruzione che invece ha toccato il fratello. Esattamente, perché lo scandalo di corruzione era relativo appunto alla dichiarazione per così dire dei redditi del primo ministro e a una serie di transazioni poco chiare con cui la famiglia Sharif, quindi l'ex primo ministro e i figli sarebbero accusati di aver comprato delle case a Londra attraverso appunto dell'appoggio di conti all'estero che sarebbero stati rivelati con lo scandalo dei Panama Papers. Quindi si tratterebbe di uno scandalo collegato direttamente alla famiglia dell'ex primo ministro e non ai suoi familiari, sì. Quali il fratello. Ecco, a questo punto è in corsa, potrebbe essere in corsa. Chiarissimo. Abasi, per quanto ad interim, dovrà comunque fare qualcosa, insomma, dovrà governare il paese, dovrà sbrigare quelli che sono i dossier sul tavolo. Sarà un premier ad interim fantoccio di facciata o si troverà comunque a prendere decisioni? No, dalle dichiarazioni che ha rilasciato veramente nei primi momenti della sua nomina, Abasi si è intenzionato a portare avanti quella che è l'agenda di governo ed è un passo fondamentale, innanzitutto perché comunque Abasi ha l'appoggio non solo del proprio partito, che è il partito dell'ex primo ministro che ha la maggioranza in questo momento in Parlamento, ma anche di tutta una serie di partiti minori che evidentemente stanno puntando a mantenere la stabilità di governo in un momento particolarmente delicato per il Pakistan, perché sì. Il Pakistan in questo momento si trova a dover gestire diverse questioni regionali e di spiccato interesse, primo fra tutti i rapporti con la Cina. Pakistan e Cina negli ultimi anni si sono avvicinati moltissimo all'interno del grande progetto delle nuove vie della seta iniziato da Pechino e sì. Che vede il Pakistan coinvolto con un ruolo primario, perché il cosiddetto Pakistan-China Economic Corridor che dovrebbe attraversare il paese unirebbe il braccio terrestre e il braccio marittimo delle nuove vie della seta cinese e quindi avrebbe un ruolo assolutamente strategico sia per il Pakistan, che vedrebbe diversi miliardi di investimenti cinesi nel proprio paese, sia per la Cina, che avrebbe un diretto sbocco sul mare. Sì. D'altro canto la stabilità politica pakistana in questo momento è fondamentale per avere un ruolo all'interno del processo di dialogo e di ricerca di una soluzione per quanto riguarda la pluriennale di sicurezza in Afghanistan. E adesso ci andiamo sul dossier afghano, che è tra quelli più scottanti di tutta la zona. Nel frattempo il New York Times con una breaking news fa sapere che Trump ha firmato la bozza approvata dal Congresso per applicare nuove sanzioni alla Russia dopo la presunta intromissione nelle elezioni. Se ci avete seguito anche nei giorni scorsi abbiamo parlato di questo braccio di ferro tra Putin e Donald Trump, questa luna di miele, ma è iniziata probabilmente, ne parlavamo proprio ieri con Francesco Costa. La firma ovviamente va a aumentare le tensioni fra i due paesi. Trump non ha esercitato il potere di limitare le sanzioni, ve ne daremo conto nei prossimi giorni, nelle prossime puntate in Nessun Luogo è Lontano. Intanto vi ricordo, avete ancora pochi minuti per gli ultimi commenti, è il 349-238-6666. Ma noi siamo con Francesca Manenti di CESI, Centro Studi Internazionali, analista, esperta di Pakistan. Il vicino Afghanistan è un dossier che riguarda tutta la comunità internazionale per la presenza militare, per la ricostruzione, per i grandi fallimenti anche di una presenza occidentale che dopo anni ha lasciato un'eredità, come dire, delicata, per usare un eufemismo, l'avanzata di nuovo delle forze talibane che hanno preso importanti città, e poi c'è sempre quel ditino puntato, no, da parte della comunità internazionale e non solo sulle zone al confine, e questo Pakistan che userebbe insomma una doppia faccia nei confronti della questione Taliban. Quanto questo premier ad interim e eventualmente il fratello di Sharif sono secondo lei immanenti, disponibili a una, come dire, a un innesto della quinta per risolvere finalmente il dossier afghano? Ma più che il primo ministro in sé, quindi questo ad interim o il successivo, quello che è importante per il Pakistan è appunto essere considerato un interlocutore credibile, quindi avere un governo stabile che gli permetta di presentarsi con le spalle grosse ad un eventuale tavolo di dialogo che sarebbe piuttosto complesso, perché vedrebbe, oltre alla partecipazione del Pakistan, inevitabilmente le autorità afghane sedute al tavolo, ma anche i due grandi giganti che in un certo senso si stanno contendendo l'influenza nell'area, quindi gli Stati Uniti, che storicamente sono presenti, che forse in questo momento vorrebbero esserlo sempre meno, sì, e d'altra canto la Cina, che invece storicamente forse meno attivo, sempre presente ma meno attivo o presenzialista, invece in questo momento sta cercando, per i propri motivi strategici, di essere un attore di primo piano. Quindi per il governo pakistano andare a dare un'immagine ai propri interlocutori, un'immagine di stabilità, un'immagine di forza, è assolutamente importante, soprattutto se consideriamo che il Pakistan è un paese in cui al potere politico, al potere del governo, si contrappone sempre l'altra grande faccia della medaglia, che sono le forze armate, l'esercito. Certo. E in questo contesto la dialettica governo forze armate è fondamentale, insomma, per riequilibrare quelli che sono i pesi all'interno del paese. Grazie mille Francesca Monenti per essere stata con noi e averci restituito la fotografia del Pakistan che verrà con il nuovo premier ad interim, e poi vedremo insomma se verrà confermato il fratello di Sharif. Francesca Monenti, analista esperta di Pakistan del Centro Studi Internazionale CESI, buona giornata e buon lavoro. Altrettanto, grazie. Intanto al 349-238-6666 via WhatsApp c'è un ascoltatore che dice: ma la Cina ha un enorme sbocco in mare. Certo, quello ad Oriente, però grazie al Pakistan potrebbe avere uno sbocco sull'Oceano Indiano, e che dal punto di vista commerciale, come avete sentito dalla nostra ospite, potrebbe essere molto molto interessante. Poi c'è chi invece invoca un intervento militare americano in Venezuela, e chi torna ancora sulla questione dell'impronta digitale. Però adesso il tempo stringe e quindi è tempo di titoli di coda. Con i quali ringrazio Antonio Tali e Elisa Pancaldi che hanno confezionato con me questa puntata, Pietro Lacorte che le ha dato musica, ritmo ed effetti, voi per essere stati all'ascolto. L'appuntamento è questa sera alle 20, domani mattina alle 6, poi il podcast su radio24.it, c'è sempre la diretta Facebook per una bella, sana, scorpacciata di esteri. Intanto vi saluto, buona giornata da Giampaolo Musumeci.